Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi vi parlo di un romanzo che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane, un romanzo italiano che si intitola I Buoni, l'autore è Luca Rastello ed è pubblicato da Chiare Lettere, che con questo titolo inaugura una nuova collana, Narrazioni, 204 pagine, 14 euro. Questo romanzo è ambientato in un mondo del quale non si può che parlare bene, il mondo del non profit, che l'autore conosce molto bene per averlo frequentato anche professionalmente, ma all'interno di questo mondo ci possono essere tante ombre, come dimostra l'organizzazione nella quale si svolge il romanzo di Rastello, che è dominata dalla figura carismatica di un prete con grandi capacità organizzative, grandi capacità di relazione, che ha dato vita a un piccolo impero, un impero nel quale a scavare bene si trovano molte tracce di ipocrisia e anche di autentica illegalità, nonostante che la legalità sia il mantra di quella organizzazione. In questa figura di prete molti hanno voluto riconoscere un sacerdote molto popolare anche sugli schermi televisivi, riducendo così il romanzo a un oggetto da polemica. E invece il romanzo è interessante in sé per il tema che affronta e per lo stile letterario, oltre che per i personaggi ai quali dà vita, tra tutti certamente Don Silvano, il sacerdote protagonista, e poi il suo braccio destro, Livio Delfino, untuoso e sinistro, la protagonista femminile, Aza Olea, una giovane rumena, protagonista appunto di questo libro, che imparerà a conoscere gli aspetti più equivoci dell'organizzazione di cui fa parte, nonostante che Don Silvano l'abbia presa a ben volere. Ma sentiamo su questo l'autore. Buonasera a Luca Rastello. Buonasera, buonasera. Luca Rastello, le faccio grazie della domanda su chi sia il personaggio al quale si è ispirato per il Don Silvano del suo libro, ma invece voglio chiederle come si è accostato, perché si è accostato a questo tema del no profit e del volontariato in termini che certo se non sono dissacranti, certo sono abbastanza demistificatori di questa realtà. Ma io vorrei dire non demistificatori, critici. No? Penso che la critica sia un esercizio. Daniele Giglioli ha scritto addirittura che la critica è una forma di pietas, nel senso di preoccupazione per il bene comune. E io mi sono avvicinato a questo tema per due ragioni fondamentali. Una è testardaggine, perché è un ambiente che mi ostino a frequentare, insomma è qualcosa che continuo a fare, l'azione sociale, solidale, e un confronto continuo, quotidiano, nell'arco di tutta la mia vita con le organizzazioni che se ne occupano, all'interno di alcune delle quali ho anche lavorato. E se non continuassi a crederci in maniera testarda non starei nemmeno a scrivere, insomma non lascerei perdere l'argomento semplicemente. L'altra ragione invece è di preoccupazione un po' più generale, se non universale. Insomma, nel libro io cerco di raccontare forme di manipolazione, di costruzione di rapporti di potere, di dinamiche interpersonali violente e in qualche modo depravate che si creano all'interno di realtà associate di qualunque tipo, non soltanto, ci tengo a dirlo, delle realtà associate che si occupano di azione civica, ma di qualunque tipo. L'idea era appunto raccontare qualcosa a proposito del male che si genera quasi necessariamente all'ombra delle insegne del bene. Ovunque il bene si trasforma in un'insegna, nasconde, mette in luce qualche cosa, qualche dinamica che appartiene all'umanità complessiva, a tutti, appartiene a me, per cui la ringrazio di avermi fatto grazia della domanda orribile che spesso mi viene fatta, e per ringraziarla le dico che in primo luogo ho pensato a me, perché credo che per essere efficace chi scrive una storia debba partire dai suoi potenziali lati oscuri. Ecco, veniamo al romanzo, veniamo a Don Silvano. A un certo punto lei scrive che questo prete partorisce la protagonista femminile, Aza, e la partorisce attraverso il linguaggio. Ecco, quanto pesa il linguaggio nella strategia di Don Silvano? Moltissimo, moltissimo. Costruire un linguaggio, dominarlo nell'ambito della manipolazione tra gli umani è fondamentale, essenziale, crea le situazioni attraverso il linguaggio, un Don Silvano. Con la protagonista c'è un rapporto paterno, no? Lei lo identifica come il padre che non ha mai avuto e lui in qualche modo la rimette al mondo, perché da un passato di inferno, di violenza, di droga, la riporta in un presente di impegno sociale, di vita associata, quindi in qualche modo la ripartorisce anche socialmente, però soprattutto il suo modo a un certo punto è detto che Don Silvano partorisce il linguaggio, perché lui stesso attraverso la manipolazione linguistica riesce a realizzare rapporti manipolatori con quelli che a lui si affidano, con quelli che sono intorno a lui. Pensi, per fare un esempio, all'ombra di un'espressione molto in voga come sporcarsi le mani, sì, quante cose si possono realizzare, non sempre tutte nobilissime. E in uno dei dialoghi più drammatici forse fra Don Silvano e Azza, a un certo punto il prete le dice: a volte in situazioni di emergenza si forza la mano, d'accordo, insomma un prete un po' machiavellico, il fine giustifica i mezzi. Ecco, quanto è diffusa questa mentalità, questa linea nel mondo che lei ha voluto descrivere? Troppo, tanto che in quel mondo lì e in tutte le sue realtà, io mi sono accorto che accadeva anche in realtà in cui il Don Silvano ero io, perché a me è capitato di avere anche qualche ruolo di rilievo in alcune di queste associazioni, molto spesso si deroga ai principi elementari di legalità che si enunciano, per esempio nei rapporti del lavoro, così come si è realizzata a partire dagli anni 90 in Italia una riforma strisciante del welfare, che è stato di fatto privatizzato affidandolo a queste associazioni, che però poi non sono oggetto di un controllo pubblico democratico, non sono trasparenti dal punto di vista economico e finanziario, se non raramente. Si è creata anche una situazione di riforma strisciante dei diritti del lavoro, perché all'interno di questo mondo, di queste realtà, molto spesso i diritti del lavoro subordinato sono scavalcati in nome di un fine superiore, come dire, se pretendi anche di essere pagato regolarmente, che i contributi ti vengano versati, che la maternità ti sia garantita, vuol dire che non hai capito che qui stiamo lavorando per il bene e quindi vai a cercarti un lavoro nel profit. Ecco, questo credo sia un atteggiamento distorto in cui il fine viene anteposto ai mezzi e i mezzi non sono sempre onesti. Però poi nel suo libro c'è un protagonista mutuo e monumentale, che è la legalità, in nome della quale si giustifica qualunque cosa, no? La legalità che esclude immediatamente chi ha dei dubbi, come lei a un certo punto scrive, che compare addirittura ad Adrian come un dio. Ecco, che cosa rappresenta questo mito della legalità così frequentemente evocato? Eh beh, è un feticcio. Attraverso l'idea di raccontare rapporti manipolatori attraverso la formazione del linguaggio richiedeva naturalmente alcuni esempi, e io ho provato a lavorare su due dei feticci culturali più in voga, che sono la legalità e la memoria. Voglio spiegarmi su questo, perché è un discorso molto scivoloso. Per quanto riguarda la legalità, io penso che la legalità debba essere sempre considerata come un metodo sacrosanto, metodo che serve a far rispettare alcuni valori su cui membri di una società concordano. Ci si mette d'accordo fra diversi su alcuni valori che stanno al di sopra delle parti, e la legalità è il metodo per garantire l'usufrutto, l'esercizio di questi valori. Ma se la legalità viene eretta essa stessa a valore, come in maniera metafisica, insomma, imprescindibile, assoluta, allora si passa in un territorio pericolosissimo. Si può dire che se la legalità è un valore, dal 1938 in avanti in Italia era giusto denunciare in maniera anonima le famiglie ebree e poi consegnarle ai nazisti, perché quella era allora la legge e la legalità. Diciamo che la legalità elevata a feticcio porta ad Eichmann. Molto spesso invece questo viene dimenticato, perché agitare una bandiera emotivamente mobilitante, molto forte, così crea potere, crea influenza, crea fascino e crea seguaci. E lo stesso vale per la memoria. La memoria è in qualche modo un rapporto proprietario con il passato. Pensi cosa hanno fatto tutti i nazionalismi del Novecento con il nome della memoria. La ex Jugoslavia è uno degli esempi più recenti e vicini a noi e sanguinosi. La memoria è sempre la mia memoria, la nostra memoria, la memoria di un individuo, di una comunità. È una sostanza che Primo Levi, nella prefazione di Sommersi e Salvati, definiva ambigua e scivolosa, proprio perché istituisce col passato un rapporto proprietario che è il contrario di quello che è invece la storia, terreno di negoziazione, tavolo dove la critica si può esercitare per arrivare a comprendere il passato, perché non è vero che le nefandezze del passato vengono ripetute da chi dimentica il passato, vengono ripetute da chi non capisce il passato. Riportarlo in vita attraverso feticci, come hanno fatto i nazionalisti serbi e come purtroppo molto spesso si fa nella retorica del mondo del volontariato e del bene, è un'operazione tutto sommato estremamente pericolosa e ancora una volta manipolatoria. Crea grandissimo consenso, crea delle insegne luminose e anche un po' ricattatorie sotto le quali non è possibile non schierarsi, però è una sostanza pericolosa e che esclude il confronto, il dibattito e la valutazione critica del passato. Luca Rastello, la trattengo un attimo perché voglio prima presentare un libro molto polemico, col non profit, anche questo di fonte insospettabile. L'autore infatti è un sociologo che col non profit ha avuto molto a che fare anche lui, essendo stato tra l'altro segretario generale di Cittadinanza Attiva, un movimento civico fra i più celebrati. L'autore si chiama Giovanni Moro, il libro si intitola Contro il non profit, è pubblicato dalla Terza, 182 pagine, 12 euro. La fonte dunque non sospetta, il titolo eloquente, ma è lo stesso Moro a raccomandare prudenza ad affrontare questo tema. Il tema del non profit ha suscitato per molti anni entusiasmo, oggi, scrive Moro, suscita piuttosto sospetto e sfiducia. Bisogna avere il coraggio di mediare tra questi due eccessi, come era sbagliato l'entusiasmo e sbagliato il sospetto. Entrambi gli atteggiamenti, scrive Moro, non aiutano a cogliere la realtà. E allora, che cosa lo ha spinto a scrivere questo libro? Innanzitutto la constatazione, spiega lo stesso autore, che nella categorizzazione del non profit una miriade di organizzazioni e iniziative vengono accorpate in un magma informe, tenuto insieme solo da una ragione fiscale, e nel quale attività della massima utilità sociale finiscono per essere messe insieme ad altre ottime e piacevoli, ma che con l'interesse generale c'entrano poco. Per Moro è la teoria su cui si basa la individuazione del settore non profit che è sbagliata. Questa categoria è il frutto della confusione in termini sociologici dell'espressione non profit, e determinata, anzi aggravata in Italia, dalla confusione legislativa che praticamente contempla il non profit soltanto dal punto di vista fiscale. I risultati di questa situazione, spiega Moro, sono spesso aberranti e enumera diversi esempi di queste aberrazioni, per esempio il fatto che nasca la categoria dell'ingiusto ma legale, per cui ad esempio in Spagna le squadre di calcio possono comprare per centinaia di milioni i loro calciatori, però godono, in quanto organizzazione non profit, di agevolazioni fiscali, oppure in Italia l'ICI premiasse, quando c'era, molte organizzazioni che col non profit effettivo avevano ben poco a che fare. Oppure, si chiede Moro, quando si parla di non profit, si parla di non profit per chi? Facendo l'esempio per esempio delle cliniche private, che sono spesso organizzazioni non profit ma con rette salatissime, o delle università private. E poi c'è un vero e proprio lato oscuro, aggiunge Moro. Dalle frodi ai danni dello Stato, alle truffe donatorie, alle autentiche violenze, alla violazione di regole del mercato del lavoro, addirittura a forme di collusione con la criminalità. Insomma, per Moro la situazione in Italia è fuori controllo. E allora, e questa è la domanda finale con la quale si chiude il libro, alla quale Moro risponde con l'indicazione di ricominciare da capo, partendo dalla constatazione che in realtà il non profit in sé non esiste. Occorre discernere nel grande magma. E Moro esclude espressamente 7 categorie di attività che non andrebbero comprese nel non profit, giungendo alla strategia di differenziare e graduare i benefici in relazione al tipo di attività che ciascuna organizzazione svolge. E allora, Luca Rastello, come giudica il libro di Giovanni Moro? Illuminante. Credo che sia un libro molto prezioso perché compie un'operazione appunto critica nel senso più profondo del termine, sgomberando il campo da pericolose confusioni concettuali. È come se Giovanni Moro cominciasse dalla domanda elementare che tutti dovrebbero porsi: di che cosa parliamo quando parliamo di, dato un argomento, lui parla di non profit. E il lavoro di igiene concettuale, logica, che compie Giovanni Moro in quel libro lì è anche un lavoro fattuale, perché dall'analisi di un equivoco di definizione e di legislazione arriva a una proposta di riforma di uno dei settori che stanno diventando tra i più importanti della vita associata di oggi e che economicamente è estremamente rilevante. Io credo che quel lavoro di chiarimento concettuale sia fondamentale e preliminare a ogni indagine su questo tipo di mondo. Grazie a Luca Rastello, autore di I Buoni. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Fra due settimane andremo a votare per le elezioni europee, spero che ci andrete anche voi. In ogni caso vi voglio segnalare qualche titolo per schiarirci le idee prima di quella scadenza. Cominciamo con alcune riflessioni su quella che è l'identità filosofica, l'identità profonda dell'Europa, non dell'Unione Europea, ma di quello che una volta si chiamava il vecchio continente. E sono le riflessioni di un grande filosofo morto quasi 40 anni fa, Jan Patočka, ceco di origine, autore di L'Europa e dopo, pubblicato da Medusa, 120 pagine, 15 euro, tradotto e curato da Martino Doni. Un grande filosofo boemo, dicevo, allievo di un altro grandissimo filosofo, Husserl, che ha vissuto le convulsioni della sua patria fra nazismo e comunismo, viene poi duramente censurato durante il regime comunista, rimane a Praga anche dopo la primavera, senza però poi poter espatriare dal suo paese, partecipa al movimento Carta 77, in seguito a questa partecipazione viene più volte arrestato e quando morirà la polizia cecoslovacca cercherà in tutti i modi di disturbare persino il suo funerale. Questo saggio è una riflessione sulla condizione del vecchio continente che, secondo il filosofo, dimostra un nucleo resistente alle catastrofi e ai disastri e capace di generare, scrive, sempre nuove forme di unità, forse più vaste e formali. Le catastrofi potrebbero infrangere l'accidentale sclerotizzato, aprendo spazi evidenti e più vasti per nuove formazioni di umanità. In questo, in fondo, sta il destino dell'Europa, un destino le cui origini sono rintracciate nel pensiero classico, in particolare nella contrapposizione tra due filosofi, Democrito e Platone. Platone, visto come l'origine delle idee europee, fondatore della teoria politica dello Stato, e Democrito, che secondo Patočka rappresenta l'esplorazione filosofica del mondo su principi universali, secondo un metodo deduttivo ben ponderato, che avrà un'importanza grande per la fondazione spirituale dell'Europa. Un libretto sull'attualità è quello di uno storico molto noto, David Sassoon. Si intitola Quo Vadis Europa, è pubblicato da Castelvecchi, 46 pagine, 6 euro. Come avrete capito dal titolo, si tratta di un pamphlet ricavato da una conversazione di 4 anni fa a un pubblico di studenti torinesi. La visione dell'autore non è troppo ottimistica ed è dettata dalla previsione dei successi che potrebbero avere alle elezioni europee i movimenti anti-europeisti. Un successo che trova le proprie basi nella paradossale sfiducia degli europei, in parallelo tanto dei propri politici, dei politici di ciascuna nazione, quanto degli esperti, cioè dei rappresentanti dei grandi istituti internazionali. E da qui appunto il titolo. L'Europa, scrive Sasson, non è riuscita a conquistare i cuori e le menti di tanti, perché per acquistare più potere c'è bisogno del sostegno degli europeisti, ma per avere più sostegno occorrerebbe che l'Europa avesse più potere, quindi un paradosso che blocca le prospettive stesse dell'unificazione. Lo stesso interrogativo di Sasson se lo pone un libro a più mani. Gli autori sono Maurizio Carvelli, Giulio Sapelli, Lorenza Violini, Luigi Campiglio, Francesco Forte, Giorgio Vittadini, Giuseppe De Lucia Lumeno, Alfredo Mariotti e Davide Rondoni. Il titolo del loro libro è Quale futuro per l'Europa? Percorsi per una rinascita, curato da Giulio Sapelli e Giorgio Vittadini, pubblicato da Rizzoli, 198 pagine, 11 euro. Questo libro è il frutto di una serie di incontri che si sono svolti a Milano per iniziativa della Fondazione per la Sussidiarietà. Sapelli, nell'introduzione, spiega le origini della crisi europea, da ricercare molto prima che nel crollo dei mercati del 2007, da individuare piuttosto, scrive, nell'eccesso di finanza ad alto rischio. E qui vengono esaminati vari aspetti della crisi europea, quelli relativi al fisco, alle disuguaglianze, alla famiglia, all'istruzione, alla finanza. E le prospettive ce le offre nel libro Alfredo Mariotti, che esamina l'andamento della crisi e in particolare il suo impatto per l'Italia. Occorre, conclude, riportare al centro dello sviluppo economico la manifattura e perciò serve una politica industriale europea e serve anche ridisegnare il ruolo della finanza anche attraverso nuovi strumenti finanziari. E di uno degli autori che ho citato, Giulio Sappelli, è uscito un libro con una visione globale del mondo, un libro da questo punto di vista molto coraggioso, si intitola Dove va il mondo per una storia mondiale del presente, pubblicato da Guerini Associati, 134 pagine, 12,50 €, un programma ambizioso, quello di Sappelli, dicevo, che riflette i lavori effettuati nell'ambito della Fondazione ENI Enrico Mattei. Qui c'è una visione molto problematica a proposito dell'Italia, per esempio scrive Sappelli: il nostro paese è molto più solo di quello che io stesso non sia orientato a credere. Sappelli esamina i grandi centri di crisi, sottolinea come ormai i nodi siano venuti al pettine, conclude che occorre cambiare tutto e in particolare cambiare l'Europa, e su questo dà anche alcune ricette. Infine vi segnalo due libri di due economisti molto noti. Il primo è Luigi Zingales, italiano di nascita, americano di adozione, insegna infatti a Chicago. Il suo libro si intitola Europa o no? Sogno da realizzare o incubo da cui uscire? È pubblicato da Rizzoli, 210 pagine, 18 €. Anche qui si parte dai movimenti contro l'Europa, che condensano le ansietà, le preoccupazioni, lo scetticismo, in particolare sull'euro. E allora, e questo è il tema del libro, conviene uscire dall'euro? Questo è il tema del libro. E per rispondere Zingales ripercorre la storia dell'Unione Europea, che cosa essa abbia rappresentato soprattutto in termini politici, sottolinea la strategia iniziale di Jean Monnet, che cercava di gettare il cuore oltre l'ostacolo, cioè di bruciarsi i ponti alle spalle per arrivare a una vera e autentica unificazione politica. Una visione, secondo Zingales, molto simile a quella leninista. E il processo di unificazione dell'Europa, secondo Zingales, è illustrato da due poli che fanno riferimento a due grandi tradizioni culturali, quella che si può riconoscere in Cartesio, quindi un metodo fatto di regole perfette, fatte dagli esperti che bisogna seguire pedissequamente, e invece l'altro polo che fa capo a Locke, il grande pensatore liberale, fallibilista, secondo il quale più che le regole occorrono le istituzioni. Purtroppo per l'Europa ha vinto la prima visione, mostrando tutti i limiti in questi anni. E poi Zingales studia le ragioni dell'euro, le sue condizioni. Dice che era nato deboluccio e la crisi dell'euro si vide subito. E scrive infatti che se c'è una crisi annunciata dagli economisti è proprio quella della moneta unica. L'Italia però, aggiunge, non avrebbe potuto fare altro che entrare nella moneta unica. I costi del non ingresso sarebbero stati certamente superiori. Avremmo perso ulteriore credibilità, scrive Zingales, se la spirale alti tassi, alto debito ci avrebbe portato rapidamente o a un'inflazione galoppante o a un default. Ma fu sbagliato il modo in cui ci entrammo. Secondo Zingales, Romano Prodi non fece male a farci entrare nell'euro, fece un grosso errore, come scrive, nell'entrarci senza una forma di rinegoziazione del debito pubblico e pensionistico. Poi Zingales esamina l'impatto dell'euro, i costi, i benefici, i particolari della crisi che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, e ci ricorda che la crisi italiana non è nata con lo spread, ma è frutto di 20 anni di mancata crescita e di gestione dissennata della finanza pubblica. E allora adesso conviene uscire? Neanche per sogno. Zingales ci ricorda l'esperienza dell'Argentina, ci spiega che svalutare sarebbe molto peggio di altre soluzioni, e quindi occorre cercare di recuperare margini per le riforme che permettano alla nostra economia di ripartire. Scrive infatti Zingales: la vera colpa dell'euro non sta nell'aver reso non competitive le merci italiane, ma nell'aver permesso alle nostre istituzioni poco competitive di sopravvivere immutate. Quindi bisogna cambiare le regole e soprattutto la politica. L'altro economista è Lorenzo Bini Smaghi, che nell'euro ha avuto le mani in pasta perché è stato membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, oggi insegna ad Harvard. Il suo libro si intitola 33 false verità sull'Europa, è pubblicato dal Mulino, 188 pagine, 14 €. Bini Smaghi qui prende in esame 33 luoghi comuni che si sono consolidati e che rischiano di esprimersi appunto nella forza dei movimenti anti-europeisti. Scrive Bini Smaghi: in Europa è molto forte la tentazione di dare la colpa di tutti i problemi alle istituzioni europee. Allora, come uscire dalla crisi dell'Europa? Serve una nuova fiducia che sarà lunga da ricostituire e in particolare serve che ciascun paese, a partire dall'Italia, si prenda le proprie responsabilità. Vinnie Smaghi scrive infatti che l'Italia è diventata il perno su cui si poggia il destino dell'Europa per la dimensione del paese, per il fatto che l'Italia sta attraversando una crisi che dura ormai da anni e per la crescente avversione nei confronti delle istituzioni europee. E qui giunge a delle conclusioni molto simili a quelle di Zingales, scrivendo che la principale fonte di preoccupazione di chi guarda l'Italia dall'esterno è proprio l'incapacità del paese di capire che i problemi sono soprattutto di origine interna e che per risolverli, conclude, c'è bisogno di profonde riforme che incidano in modo radicale sul sistema economico. Prima di salutarci vi segnalo una nuova iniziativa della casa editrice Il Mulino. Per la prima volta questo editore si dà ai viaggi, organizza dei viaggi con grandi intellettuali che ci permetteranno di conoscere alcune grandi capitali. Si comincia con Franco Cardini, il grande storico, che ci porta a Istanbul. La visita a Istanbul avrà luogo dal 20 al 25 maggio, seguiranno gli incontri a Gerusalemme e a Pechino. E proprio Franco Cardini ha pubblicato Incontri e scontri mediterranei, pubblicato da Salerno, 126 pagine, 8,90 €. Una breve ma succosa e preziosa ricostruzione di che cosa sia stato in termini di civilizzazione il Mediterraneo e soprattutto di quali siano le sue prospettive. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un libro di ispirazione per l'appunto mediterranea, si intitola La banda dei Giuffà di Carlo Carzan con le illustrazioni di Lucia Scuderi, pubblicato da Mesogea, 12 €. Qui troviamo le avventure di quattro ragazzi scatenati in una imprecisata città del Mediterraneo, appunto, che riprendono vari spunti del leggendario Giuffà siciliano. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.